stride, ma non ci sono scorciatoie. Non c'è via che mi risparmi. Fratello, aiutami tu. Fratello, aiutami tu a cambiare senza tornare. Ho bisogno di una fine senza tormento. Ho bisogno di una fine che mi attraversi. Uccelli in birico mi dividono da soli offuscati, e il cielo non si apre, non vedo nemmeno.